Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Continuiamo a parlare di questi oggetti, le pompe di calore ad assorbimento questa sera. Ormai sapete che le pompe di calore sono praticamente destinate a sostituire le caldaie, rispetto alle quali sono molto più efficienti, dato che una parte del calore che forniscono è preso dall'ambiente, dall'aria, dall'acqua o dal terreno e quindi per definizione è calore rinnovabile. Come abbiamo visto ieri sera, le pompe di calore più diffuse funzionano con l'energia elettrica, ma quelle ad assorbimento, una nuova generazione di pompe che in pratica funzionano a gas, hanno diversi vantaggi. Primo, se la sorgente di energia rinnovabile è l'aria, non rischiano di calare brutalmente di rendimento proprio quando fa più freddo, come accade con le pompe di calore elettriche. Secondo, funzionano bene anche coi caloriferi, cosa che non accade, anzi è quasi impossibile con quelle elettriche. Terzo, dato che sono sistemi alimentati a gas, le pompe di calore ad assorbimento non causano un aumento della domanda di energia elettrica. Di tutto questo abbiamo parlato con Mario Motta, docente del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, esperto di tecnologie energetiche a basso impatto ambientale, che è tornato a trovarci questa sera. Buonasera Motta. Buonasera Melis. Allora, torniamo su questo argomento per la seconda volta in due giorni, perché un paio d'anni fa queste tecnologie erano da un lato molto costose e dall'altro anche poco scalabili. Si riuscivano a fare grosse macchine ad assorbimento, ma non macchine piccole adatte a riscaldare o a raffreddare, per esempio piccole unità abitative come ville singole, non parliamo di appartamenti. Ora però le cose stanno cambiando. Sì, stanno certamente cambiando. Nel panorama dei prodotti disponibili sul mercato non c'è ancora moltissimo, però tutti i grandi operatori del settore, diciamo, del riscaldamento hanno progetti di sviluppo in questo senso. E l'Italia è, diciamo, capofila, una volta tanto lo possiamo dire. Sì, l'Italia ha un esponente molto forte nel settore che è Robur, azienda con la quale voi state collaborando. Tra l'altro voi avete aperto, proprio come Politecnico, lo avete presentato pochi giorni fa, un laboratorio dedicato proprio a queste tecnologie, vero? È un laboratorio pubblico per la valutazione delle prestazioni, la certificazione di pompe di calore sia elettriche che a gas. Inoltre, diciamo, le condizioni del contorno create dalla legislazione europea in materia fanno sì che la funzione di controllo sia sulla parte di certificazione che poi di sorveglianza del mercato, che deve essere in Italia del Ministero dello Sviluppo Economico, sia fondamentale, perché si affermino sul mercato e abbiano più valore dei prodotti che hanno una prestazione energetica migliore. Cioè, in pratica lei sta dicendo che se non controlliamo quali sono le prestazioni reali rischiamo di dare soldi così un po' a caso, soprattutto gli incentivi, e in questo momento il Ministero dello Sviluppo Economico si sta abbastanza disinteressando di questa vicenda, no? L'hai detto tu. Va bene, andiamo. Ecco, dicevamo del fatto che l'Italia ha un'industria posizionata, si può dire, al primo posto nel mondo, anzi credo che lo possiamo dire con assoluta tranquillità, perché in pratica lo ha detto il Department of Energy degli Stati Uniti, che ha prodotto un documento di recente in cui confrontava queste tecnologie, e questa azienda di Bergamo, Robur, era, diciamo, quella con la tecnologia più avanzata, e in pratica lo ha riconosciuto anche l'Unione Europea, riconoscendo a Robur il ruolo di capofila in un progetto sulle pompe di calore ad assorbimento che è stato finanziato proprio dall'Unione Europea, di cui voi siete partner, questo progetto che si chiama Heat for You, vero? Sì, sì, questa è un'iniziativa finanziata col settimo programma quadro, è un progetto che è cominciato in novembre dell'anno scorso, che ha un consorzio di partner di tutto rispetto, ha fortissima matrice industriale, a parte Robur che è il coordinatore. C'è il gruppo Bosch, poi ci sono tante utility del gas de France, Suez, E.ON, la tedesca E.ON, British Gas, ed ha l'obiettivo di sviluppare una macchina per le utenze residenziali di piccola taglia, una macchina, una pompa di calore a gas che serva le utenze mono e bifamiliari, quello che lei diceva manca al momento. Le caratteristiche peraltro degli impianti di riscaldamento di molte delle utenze del nostro paese che vedono generatori autonomi, quindi spesso non le famose caldaiette con un unico generatore per il condominio, fa sì che per avere un impatto in un tempo breve bisogna trovare una soluzione alla generazione per ogni singolo appartamento piuttosto che per un condominio. Grazie Mario Motta. Buonasera Melis. Ma insomma, avete capito, lo scopo del progetto non è inventare una nuova tecnologia, ma semplicemente rimpicciolirne una già esistente, che così com'è è adatta a riscaldare dal piccolo condominio in su. Con quali risultati? 40% di consumo di gas in meno e un tempo di ritorno dell'investimento di pochi anni. Questo se il confronto è fatto con una caldaia ad assorbimento in perfetto stato, perché altrimenti il risparmio può anche superare il 50%. Insomma, potenziale di impatto elevatissimo se solo si riuscirà ad estendere questa tecnologia a tutti. Una sfida che non è solo questione tecnologica, come mi ha spiegato Luigi Tischer, direttore strategico proprio di Roburo. Sentite. Una delle parti più importanti del progetto non è solo quello dello sviluppo tecnologico, ma anche quello di preparazione di tutto quell'infrastruttura, che vuol dire realizzare field test, realizzare la formazione degli installatori, dei progettisti, realizzare le normative per quanto riguarda l'installazione di questa tecnologia nei diversi paesi. Quindi una parte importante del progetto è proprio quella che noi riassumiamo nella parola dissemination, per cercare di rendere familiare questa tecnologia alla maggior parte degli interlocutori della value chain, di chi si occupa poi di impianti di riscaldamento. Orizzonte temporale, quando tutto questo dovrebbe essere concluso? Ma noi puntiamo a tempi molto brevi, qualcosa come 2 anni, 3 anni da oggi essere sul mercato. La tecnologia deve essere adattata e ottimizzata per l'applicazione in ambito residenziale, ma è già provata la bontà delle sue caratteristiche. Quali sono state le motivazioni della Commissione europea? Senza dubbio la motivazione rilevante è quella dell'impatto. Essenzialmente questa tecnologia si adatta all'impianto a termosifone, che rappresenta la caratteristica predominante degli edifici esistenti. Questo è essenzialmente il punto nodale che la Commissione europea ha accolto in questo progetto. Certo che pompa di calore ad assorbimento a gas è veramente un nome pessimo. Il marketing non è il mio mestiere, ma forse se la chiamassero semplicemente caldaia ad assorbimento qualcuno in più la venderebbero. E con questa incursione marchettara vi saluto, appuntamento a domani.